Just a kiss, just a kiss. I have lived just for this. I can't explain why I've become Il terzo orgasmo, rubrica di sentimenti lesbici, letterari, femministi, politici, appassionati e altrimenti inesprimibili, presenta la femminilità, ovvero della concordanza e dell'importanza dell'esatto significato delle parole, del lessico, della grammatica e delle azioni. Un titolo più lungo, no? Effettivamente volevo dare un titolo più breve a questa puntata, ma... Ma? Cruciali e insopprimibili ragioni lo hanno impedito. Cruciali e insopprimibili ragioni che non voglio affatto sapere. Dal piccolo dizionario dell'inuguaglianza femminile. Il Vangelo secondo Alice Ceresa. Voce femminilità. Femminilità, modello di identificazione proposto alla donna dall'uomo per l'illustrazione e l'esplicazione delle differenze biologiche in ogni aspetto della vita quotidiana, dagli atteggiamenti esteriori ai comportamenti psicologici, dai parametri della sua conformazione fisica alla loro evidenziazione, dai sentimenti alle azioni, dai piedi alla testa, ambedue compresi. La femminilità si esplica pertanto in molti e svariati modi, ferma restando la sua modalità di principio, ovvero prescrizione fondamentale di modello alternativo a quello della mascolinità. Ma che te ridi? No, è che avere di fronte te e sentir parlare di femminilità, ecco, non è che ci sia molta concordanza. Mia cara, come dire, per una volta nella mia vita concordo con te e concordo sulla discordanza. E proprio per questo oggi ho preparato un altro raccontino di vita dal titolo Botte da Orba, ovvero come menare l'uomo che ci ha offeso per strada e farla franca. Possiamo provare per una volta seriamente a procrastinare le facezie e ad essere serie, almeno per il primo quarto d'ora. O forse possibilità di scelta? Virago! Continua Ceresa. Non è necessario che la femminilità sia innata. Necessario è soltanto che venga rispettata con il passare degli anni. La femminilità viene pertanto insegnata dapprima dalla famiglia, poi dalla scuola e da tutti i mezzi di comunicazione di massa e meno, dagli usi e costumi in vigore e infine rispettata dall'industria dell'abbigliamento e dai parrucchieri per signora. Alla donna è concesso di avere il carattere di un carabiniere nel pieno esercizio delle sue funzioni, purché sia abbigliato dei dovuti indumenti valorizzanti la femminilità biologica, che nelle donne è necessariamente quella dei mammiferi, e richiede dunque grande risalto delle conformazioni specifiche alla riproduzione della specie, tette e culo per capisse, affinché sia agevolato il richiamo sessuale del maschio, il quale ultimo, diversamente, potrebbe dimenticarsene. Never was a cornflake girl. Thought it was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really this. This is not really happening. You bet. used to peel out the white wear. Got a cheaper feel now. All the sweet tears are gone. Gone to the other side with my hands like a pea. They must have paid her a nice price. She's putting on a string big love. This is not really, this is not really happening. You bet your life. Eppure lo so che non ci credi, ma io nel mio intimo, nel mio privato, sprizzo femminilità da ogni centimetro della mia pelle, da ogni poro, da ogni bulbo pillifero. Ah, bella! Oggi, come avrete capito, cercheremo di fare il punto della situazione di una questione molto complicata, la femminilità. Tu, Nensini, dopo aver generosamente elargito il patrimonio che non avevi all'analista per ben 20 anni, conoscerai sicuramente il saggio di Freud del 1931 sulla femminilità. Uno, manco per niente. Due, sono stati solo 3, non 20 anni, e non me li ricordare. Vale allora la pena di citare Freud attraverso lo sguardo di Shoshana Filman, che nel 1981 ha per l'appunto scritto un saggio sull'argomento dal titolo Rileggendo la femminilità. Scrive Freud nel 1932. Sull'enigma della femminilità, gli uomini si sono lambiccati in ogni epoca il cervello. Neanche gli uomini che sono tra voi si saranno sottratti a questo rompicapo. Dalle signore qui presenti non ci aspettiamo questo. Esse stesse rappresentano questo enigma. Filman sottolinea, appunto, come l'interrogarsi di Freud sull'enigma della femminilità, il suo stesso porre la questione donna, cosa vuole la donna, esclude paradossalmente le donne dalla questione, impedisce che siano esse stesse a porla. La vera domanda di Freud è dunque: che cos'è la femminilità per gli uomini? Mi sta venendo su dal mio profondo una citazione dottissima. Sentiamo? Essere una donna, ma vaffa, non vuol dire riempir solo una minigonna. Dai, adesso posso leggere il mio racconto? Non ho capito. Adesso posso leggere il mio racconto? E dai, me lo fai leggere il mio racconto? Sia, prima cominci, prima finirai. Botte da orba. Ovvero come menare l'uomo che per strada ci ha offeso, ottenere il plauso generale e farla franca. Ci sono dei giorni in cui, grazie ad una moltitudine di pensieri avversi, rabbie, frustrazioni e negatività varie che orbitano su tutta me stessa, mi muovo come una funambola all'interno di uno stato di equilibrio precario. In giorni come questi, lo so bene, sarebbe meglio starsene a casa, leggere un libro zen, ascoltare musica new age, recitare un mantra E se tutto ciò non bastasse, perché ho proprio tanta aggressività in corpo, potrei sfogarmi su un cuscino o su un pungible, che sono anni che voglio comprarmelo, evitando il muro perché comunque avrebbe la meglio. Ma in uno dei suddetti giorni decido ugualmente di uscire da casa per recarmi alla presentazione di un libro DVD sulla storia del femminismo. Aggiungo che in giorni come questi anche la percezione che ho delle donne e delle lesbiche è decisamente precaria, nel senso che vorrei far sparire alcune femmine che hanno sostato baldanzosamente nella mia vita, minandola e recando danni. Ma resta l'impegno politico e resiste quel tenero continuare a credere che i rapporti tra donne, tra lesbiche e tra donne e lesbiche possono essere costruttivi e sinceri. Così, avvolta dal pensiero, vado perché il femminismo è la mia storia, è la mia vita, è la mia politica, mi metto in macchina, direzione centro di Roma. There is fiction in the space between the lines on your page of memories. Write it down, but it doesn't mean you're not just telling stories. Io abito in periferia, in una delle peggiori periferie di Roma. Quel giorno sono nella mia Opel e percorro la strada ad una velocità moderata. Non è da me guidare così. Posso dire, e mi dicono, di avere una guida sportiva, tanto da indurre chi mi sta accanto a inventarsi i doppi pedali nel vano tentativo di frenare al posto mio. Ad ogni modo, stasera il mio stato di equilibrio precario mi fa procedere alla velocità tipica da vecchietto con cappello. All'improvviso, un imbecille alla guida di una Fiesta rossa, incurante dello stop, si immette nella strada. Fortunatamente il mio stato di equilibrio precario non mi impedisce di sterzare, evitando il possibile impatto, e di suonare il clacson, gesto automatico in queste situazioni. Potrebbe finire qui, come sempre è successo tante altre volte, quando dalla Fiesta rossa sento uscire un indelicato «Brutta puttana!». In altri momenti, ve lo assicuro, perché è successo tante volte in 24 anni che guido, avrei risposto dal finestrino «Coglione, stronzo!». portandomi però dietro quel senso di frustrazione e impotenza che ti prende quando senti di essere vittima di un'ingiustizia da parte di un cretino. Ma questa volta il mio stato di equilibrio precario mi porta ad inchiodare la mia Opel davanti alla Fiesta. E non solo. Preda di quel senso di ingiustizia, scendo dalla mia macchina e mi vado a piazzare davanti alla sua macchina. Non ancora paga dell'ardito gesto, aggiungo: scendi, imbecille. Se benché siamo donne, paura non abbiamo, per amor dei nostri figli, per amor dei nostri figli. Se benché siamo donne, paura non abbiamo, per amor dei nostri figli, in lega ci mettiamo. Io là, e la lega la crescerà, e noi altri lavoratori, e noi altri lavoratori. Io là, e la lega la crescerà, e noi altri lavoratori, vogliamo la libertà, e la libertà non viene perché non c'è l'unione. Grumili col padrone, grumili col padrone, e la libertà non viene perché non c'è l'unione. Grumili col padrone, son tutti da ammazzare. Io là, e la lega la crescerà, e noi altri lavoratori, e noi altri lavoratori. Io là, e la lega la crescerà, e noi altri lavoratori, vogliamo la libertà. Se benché siamo donne, paura non abbiamo, abbiamo delle buone lingue, abbiamo delle buone lingue. Se benché siamo donne, paura non abbiamo, abbiamo delle belle buone lingue, e ben ci difendiamo. Io là, e la lega la crescerà. A questo punto viene da pensare che avevo bevuto o ingerito sostanze stupefacenti, perché, ammettiamolo, non è prudente da parte mia un gesto simile, visto che conosco l'ambiente dove mi trovo e la gente che vi circola. Ma lo stato di equilibrio precario produce effetti che neanche una bottiglia di vodka o una pasticca di anfetamina arriva a scatenare. Dunque, eravamo al mio «scendi, imbecille». Ora, è chiaro che l'imbecille è sceso dalla macchina, perché per quanto sia una lesbica stile Butch, per quanto indossi degli anfibi neri stile punk dark, dei jeans stile non so che stile, la camicia rossa stile rivoluzionaria e la giacca verde militare stile soldato Jane, sempre donna resto, e un imbecille non può accettare tale affronto, e a maggior ragione un imbecille come questo che mi trovo davanti. Brutto, sporco, cattivo e coattissimo. Certo, potrei ancora rientrare nella mia Opel ed evitare l'immaginabile, ma ormai, colta da impeto di giustiziera della notte, comincio la mia sequela. Sei un cretino, ignorante e stronzo maschilista. Io non so se l'imbecille ha dato un senso agli aggettivi, ma sicuramente ai sostantivi sì. Poi, posseduta da un momentaneo senso civico, gli dico: ma lo sai che c'è un codice stradale da rispettare e che è ammessa l'infrazione, ma certo non l'arroganza di avere ragione e di imprecare quando si commette tale infrazione. Hai commesso un errore? Va bene, ma sarebbe stato più corretto alzare la mano in segno di scuse. Credo, anzi, ho la certezza che l'imbecille non senta una sola delle mie parole, ma si avvicina a me con aria alquanto minacciosa. Durante questo suo avanzare le sue braccia si alzano e le sue enormi mani si vanno a piazzare davanti alla mia faccia. Non mi toccano, ma sono proprio davanti ai miei occhi, impedendomi la visuale. Me ne stavo per andare con un certo senso di frustrazione, ma l'imbecille fa l'ennesimo errore quando, con tono violento e sgradevole, mi dice: «Mo te sfonno!» «E no», penso io. Questo proprio non lo dovevi dire. A stento posso sopportare le tue mani davanti alla mia faccia, ma il mote sfonno proprio non lo posso tollerare. Hai decisamente esagerato. Gli do una spinta. L'imbecille cade per terra. Che potenza i miei muscoli. È proprio caduto. Ma presto si rialza. Vaffanculo, t'ammazzo! e con un'espressione quasi sorpresa mi si para davanti per l'ennesima volta. Stavolta però la sua enorme mano non si ferma davanti alla mia faccia, ma mi colpisce sul lato sinistro. E no, ma proprio sto lato che era già incidentato. A questo punto ricambio cortesemente lo schiaffo e ci aggiungo anche un calcio che era mirato al suo inutile sesso, ma che non so in quale parte del suo inutile corpo sia arrivato, ma da qualche parte vi assicuro è arrivato. L'imbecille indietreggia un po', ma subito si riavvicina a me. Stavolta cambia tattica e mi prende per i capelli, sempre sul lato sinistro, ma è una fissa allora. Adesso io mi chiedo perché prendere per i capelli è una delle mosse più comuni e scontate quando un cretino vuole far male a una donna. Tra uomini non si prendono per i capelli. A questo punto penso, eh no, i capelli proprio no. Già non ho più i miei bei ricci con i miei bei riflessi rossi del tempo che fu, e tu ti ci metti a fare pure lo stiramento? Li tira talmente forte che sento come una bruciatura sulla nuca. Colta da effimera vanità, perché si sa che i capelli per una donna e anche per una lesbica stile Butch sono importanti, e dal bisogno di alleviare il dolore alla nuca, gli do un altro calcio, che stavolta è arrivato alla meta prefissata. Devo dire che l'imbecille si presta con una posizione ideale, perché mentre mi tira i capelli fa l'errore di divaricare le gambe centralmente. Un cretino, non trovate? Non posso perdere un'occasione così allettante e devo dire che è proprio un bel calcio, potente e diretto, e gli anfibi fanno la loro bella figura. L'imbecille si piega in due, bofonchiando qualcosa che non recepisco, perché ormai, preda di una furia degna di un'erinne, perdo la percezione di ogni cosa. All'improvviso, e non so da dove, arriva un gruppetto di gente che si separa in due gruppettini. Un gruppettino trattiene lui e un gruppettino trattiene me. Accanto a me si piazza una signora che mi tiene il braccio sinistro, come a rassicurarmi, e comincia ad imprecare contro l'imbecille, dicendogli «Ho visto tutto, sei stato te a cominciare, sta signorina non c'entra niente!» Non potete immaginare il piacere che provo quando sento la sconosciuta chiamarmi «signorina». Sono anni che mi sento chiamare signora e non riesco proprio a digerirlo. A questo punto due tipi molto simili all'imbecille lo portano via ed io solo ora rientro nella mia Opel con ancora il desiderio sfrenato di picchiarlo e con la sconosciuta che mi dice con tono rassicurante «Vai bella, vai, hai fatto proprio bene!» Adesso in tutta onestà devo dire che ho incominciato io la zuffa mettendo le mani addosso all'imbecille e non mi pento affatto, sia ben chiaro, ma quella piccola bugia detta dalla sconosciuta con tanta veemenza mi ha restituito quella complicità tra donne che in certi momenti della mia vita ho visto crollare. Decisamente molto meglio della presentazione del libro DVD sulla storia del femminismo. Atrapa la noche, no es ya una novedad, que inmensa la soledad, flotando en el aire, te invade el cansancio, a muchos kilómetros sur, girando en torno, de un sueño perdido. De nada me vale el mismo maldito motel, la misma carretera, la misma inútil espera. De nada me vale, yo sigo estando siempre aquí. Oh, no, no, no. che so è solo un soplo nel vento. Me siento avida de un huracán. Con quien poder escapar del cerco, con quien poder volar. Oh, qué tremenda fatiga seguir algunos metros más. La subida es tan dura, cada vez más dura. De nada me vale, yo sigo estando siempre aquí, clavada en la pared. No quiero recordarlo ahora, no soy un Hai visto? Te l'aspettavi tale prestanza da me? Senza voler togliere nulla alla tua prestanza e alla tua baldanza, ti riporto una lettera di Alice Ceresa a Michel Cos, datata 8 maggio 1976. Adesso ti spiego come la vedo io, dice Ceresa. Per me l'ineguaglianza femminile non è fatta dei temi, delle rivendicazioni, ma è ancorata nella intera visione del mondo. Per conoscerla devo fare anzitutto il giro delle radici di quest'albero dell'ineguaglianza. Anzi, ti dirò che la mancanza di questo giro d'orizzonte è la maggiore debolezza delle femministe. Anche se capisco che chi, fortunatamente per noi tutte, si batte nelle strade, non può avere di queste preoccupazioni. Insomma, a ciascuna la sua. Chi ha da menà, menasse. E chi ha da zappa le radici, le zappasse. Chi poi vuol menar con la zappa. Però ecco, credo che nel pieno rispetto delle pari opportunità che in questo secolo sono tanto di moda, adesso è doveroso leggere anche quanto segue. Pertanto, dal piccolo dizionario dell'ineguaglianza femminile. Il Vangelo secondo Alice Ceresa, voce maschile. Maschile, trattasi di genere grammaticale che informa i nomi, pronomi, sostantivi, articoli, participi e aggettivi in distinzione del genere femminile. Quando un nome o sostantivo è maschile, maschili saranno i pronomi, articoli, participi e aggettivi. Quando due nomi o sostantivi sono maschili, maschili saranno i pronomi, articoli, participi e aggettivi per quanto al plurale. Quando si accompagnano due nomi o sostantivi di cui uno è maschile e l'altro è femminile, i pronomi, articoli, participi e aggettivi non saranno a casaccio maschili e o femminili, bensì esclusivamente al maschile, per quanto al plurale. Solo a due nomi o sostantivi femminili in assenza totale del maschile sarà consentito possedere pronomi, articoli, participi e aggettivi femminili al plurale. Così come soltanto al singolo nome o sostantivo femminile, in perfetta solitudine, è consentita la coniugazione al femminile singolo di pronomi, articoli, participi e aggettivi che lo riguardano. Ne consegue che il genere grammaticale maschile, quando si accompagna al genere grammaticale femminile, ha l'assoluta predominanza. Al femminile è consentito autonomia pronominale, distintiva e aggettivale soltanto in condizione di isolamento oppure in combinazione strettamente femminile. Chi non conosce la grammatica oppure la trasgredisce si limiterà pertanto a compiere errori e potrà senz'altro essere bocciato a qualsiasi esame e venire relegato nel novero degli ignoranti o dei poveri di spirito. Pensa che comunque nella lingua latina Cicerone diceva testualmente che il genere più nobile prevale sempre su quello meno nobile. Così il maschile prevale sul femminile e sul neutro, il femminile può prevalere sul neutro, ma tra femminile e neutro capita frequentemente anche che prevalga il neutro sul genere femminile, ovvero peggio degli oggetti. Che bella cosa questi antichi romani. Non che i romani presenti facciano diversamente, ma così dichiarato apertamente fa una certa impressione. Eppure alcune femministe di lingua inglese hanno detto, a proposito delle lingue che hanno doppia concordanza al maschile e al femminile, almeno la vostra lingua vi riconosce uno spazio anche se subordinato, la nostra, sotto la parvenza della neutralità del genere, ci sottomette in maniera più invisibile, più subdola. Molto interessante questa cosa, non ci avevo pensato. Fammi vedere se ho capito. Quindi, se te ribelli parlando al femminile anche con gli uomini, o sei matto o te bocciano. Se usi la grammatica, forse passi l'esame, ma accetti la dominazione psicologica e sociale. Se usi un'altra lingua, scompari. Che ci rimane? Ecco, è qui che arriviamo proprio al culmine della puntata. È il linguaggio che ci domina e condiziona la cultura o è il linguaggio solo lo specchio della cultura? Apriremo da oggi in avanti una nuova rubrica all'interno del nostro programma relativa alle questioni impossibili, dal titolo di sapore molto classico. Viene prima l'uovo o la gallina? Non era il raccontino il culmine della puntata? Certo che no. Ma te una certa qual grazia e femminil cortesia non te l'ha insegnata nessuno? Dicevo, viene prima l'uovo o la gallina? Ah, per me vi è sempre prima la frittata, fedele nei secoli. Se avete da segnalarci questioni impossibili, potete scriverci a ilterzoorgasmo@gmail.com. E se avete le soluzioni, sarebbe anche meglio. La puntata finisce qui. Ma prima dei saluti vi diamo alcune date da tenere bene in mente. Dunque, il 17 dicembre, quindi sabato prossimo, c'è l'immancabile appuntamento con la Lesbo Tombola delle nostre compagnucce del CLR, a partire dalle ore 21 presso il Centro Femminista Separatista in via San Francesco di Sales 1B. Il 6 gennaio vi segnaliamo l'appuntamento al Kesbilè, sempre in via San Francesco di Sales 1B, con una serata all'insegna della Befana. E con noi del Terzo Orgasmo, ci sentiamo il 24 gennaio del 2012. Ricordo ancora una volta che potete mandare le vostre questioni possibili e impossibili alla nostra mail, che è ilterzoorgasmo@gmail.com. A tutte un augurio di buone feste innanzitutto, di buon inizio d'anno. Perdonami, baci, baci, un attimo, baci. Volevo salutare una nostra fedelissima ascoltatrice. Cui è, chi sta? Un saluto e un bacio ad Emanuela che ci segue sempre, ciao. Ah sì, allora io a questo punto approfitto che saluto anche un bacio al mio gatto Jack. Ciao Getch, ciao mio ciomacio. Baci, baci, baci da Nancy. E Genziana. E quindi al 24 gennaio con noi, ciao a tutte. Ciao. E adesso Alina Orlova Menulis, ciao. Manolyje nėra mokyklų ir Manolyje nevyksta karas, o Manolyje daug valgyklų, kur nemokamos bandelės. O Manolyje gyvena elniai, jų nenumuša mašinos, kai jie žiūri šitaip švelniai, net vaikams nėra anginos. Ten kiekvienas pats saunojus, ten visai nereikia skėčių. O Mėnulyje yra drakonų, jos paglostyti gali.